Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Qualcuno in Italiano è un evento unico, un'opportunità unica per dare voce alla comunità italiana a Londra. In particolare si punta a riunire tutti i lavoratori e gli studenti che hanno deciso di emigrare dall'Italia in cerca di nuove opportunità. Ciao, sono Sara, studio francese e tedesco. L'obiettivo del nostro forum è quello di creare una lista di idee per agevolare il nostro ritorno in Italia. Perché te ne sei andata dall'Italia? Il livello dell'università italiana non sia abbastanza elevato. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Riprendiamo oggi la normale programmazione dopo due settimane di pausa, dedicando la nostra copertina a un interessante esperimento di due giovani italiani a Londra, Ludovica e Roberto. Si chiama Qualcuno era italiano. L'idea è dare vita a un forum di discussione per i giovani connazionali che vivono in Gran Bretagna, analizzando le ragioni della partenza dalla penisola e comprendendo perché il nostro bel paese non è stato un buon padre con noi, così dicono. Oltre al sito, Ludovica e Roberto hanno già organizzato un incontro dibattito con decine di giovani nella capitale britannica. Tutte le info su qualcunoeraitaliano.org. E attenzione, di emigrazione oltre manica parleremo tra pochissimo con numeri clamorosi. La frase della settimana è copyright di Giovanni Magni, studente di Catania. Noi ragazzi siciliani faremo la valigia una sola volta e torneremo in questa bella terra solo per le vacanze. Se non si riesce a invertire questo trend, sarete responsabili della perdita del capitale umano più pregiato, giovane, colto e preparato, senza il quale non ci può essere futuro per la Sicilia e per l'Italia. Per Magni, che ha letto queste parole alla presenza del capo dello Stato Giorgio Napolitano, l'Italia non lascia più spazio alle ambizioni dei giovani, non accoglie più con fierezza i suoi cervelli, non ne fa un fattore critico di successo, bensì li lascia andare all'estero, dove fanno la fortuna di altri paesi e imprese che, a differenza del nostro, sono disposti a scommettere su chi dimostra di valere o di volere. Italia gerontocratica la si vede riflessa nella nostra pubblica amministrazione, dove sono presenti 750.000 over 55, lo rivela il rapporto Aran. Il rapporto stima nel 23,4%, quasi uno su quattro, i dipendenti pubblici tra i 55 e i 64 anni. La percentuale di under 35 è pari a poco più del 10%, ben lontana da Regno Unito e Francia. Potrebbe essere utile una staffetta generazionale come ipotizzata dal governo? Dite la vostra a giovanitalenti@radio24.it. Gerontocrazia anche tra i camici bianchi. Troppo vecchi i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Quelli con età superiore ai 60 anni sono quasi 15.000, superano i 30-40 anni fermi a 13.000 unità. Lo denuncia la FPCGL Medici. L'età media del Servizio Sanitario Nazionale è, pensate, di 51,57 anni. Noi intanto torniamo a parlare di giovani, giovani artisti in fuga verso la Francia. Il motivo conduttore delle proposte culturali alle istituzioni era sempre: qual è il tuo aggancio politico? Io purtroppo agganci politici o per fortuna... Cioè questo è il parametro di valutazione in Italia dei progetti? Sì. Tullia Conte, 33 anni, è regista teatrale, attrice e performer a Parigi. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Notiziario monotematico oggi con i dati dell'anagrafe italiani residenti estero che Giovani Talenti è in grado di fornirvi in esclusiva. Nel 2013 la Gran Bretagna è diventato il primo paese mondiale di immigrazione per gli italiani, con 12.904 espatri ufficiali. L'incremento rispetto al 2012 è stato del 71,5%. Il vero boom di espatri verso il Regno Unito nella fascia 20-40enni, più 81%. Il Lazio scalza la Sicilia come terza regione di provenienza. L'emigrazione giovanile resta elevata, più 28% rispetto al 2012, 9 punti sopra l'incremento generale. Un immigrato su due ora ha tra i 20 e i 40 anni. A Giovani Talenti, Desideria Toscano, responsabile dell'ufficio AIRE al Ministero dell'Interno, fa il punto sugli italiani ufficialmente residenti all'estero. Dal 31/12/2013 sono 4.482.115, con un incremento rispetto all'anno precedente pari al 16%. Il totale invece degli espatriati rispetto all'anno in cui è stata istituita l'AIRE è pari a 2.379.977, quindi sostanzialmente possiamo dire che la metà dei cittadini che sono registrati nell'AIRE dagli anni 90 è quasi la metà rispetto al totale. Andiamo ora sulle novità principali di quest'anno. La novità che salta più all'occhio è il balzo della Gran Bretagna, che diventa la prima meta di espatrio mondiale sia a livello generale sia a livello dei giovani nella fascia 20-40 anni. Il Regno Unito è in assoluto il paese dove si registra il maggior numero di espatriati. perché nell'arco del 2013 sono espatriati 12.904 cittadini italiani, con un incremento del 71% rispetto al 2012. Nella fascia 20-40 anni addirittura la percentuale di incremento va all'81%. All'81%, quindi un 10% in più. Vuol dire che effettivamente il numero degli espatriati giovani nel Regno Unito è decisamente rilevante rispetto al passato. Come diceva lei giustamente, c'è un incremento dell'81%, gli iscritti in totale sono 8.487. Germania e Svizzera restano invece gli altri paesi nella classifica, in ordine di classifica. Andando invece sulle regioni di provenienza, è interessante vedere la scalata che fa il Lazio, che scalza addirittura la Sicilia. Il Lazio sì, sia come dato generale, sale, come diceva lei, al terzo posto dopo la Lombardia e il Veneto, con un incremento come dato generale del 38% rispetto al 2012. Gli iscritti quest'anno sono 8.211, per iscritti intendo gli espatriati nell'arco del 2013. Come dato relativo ai giovani, quindi come fascia di età tra i 20 e i 40 anni, il Lazio è sempre al terzo posto dopo la Lombardia e il Veneto e registra un incremento del 57% rispetto al 2012. È praticamente la prima volta che nelle prime tre regioni di espatrio manca una regione del sud, una regione del sud, è la prima volta che si registra al terzo posto una regione del centro che ha sorpassato la Sicilia, che è attualmente al quarto posto. Quindi è sempre più un'immigrazione dal centro-nord Italia ormai verso l'estero? Sì, in controtendenza rispetto al passato, perché noi vediamo che tradizionalmente nelle statistiche dei primi anni 90, anno in cui è stata istituita l'AIRE, l'emigrazione proveniva prevalentemente dalle regioni Sicilia e Campania. Un ultimo dato importante è il fatto che i 20-40enni mantengono un tasso di migrazione molto elevato rispetto alla media generale, tanto che ormai la componente dei giovani è veramente pesante. Circa la metà. Cosa ci può dire su questo? Rispetto al complessivo, perché il flusso degli espatriati in generale è pari al 94.126 persone, questo è il totale complessivo degli espatriati nell'anno 2013, e di questi i giovani sono 45.516, quindi è la metà della percentuale, vuol dire che di due persone che espatriano una è di età compresa tra i 20 e i 40 anni. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Francia. Crisi e tagli permettendo, occorre riconoscerlo, i cugini transalpini hanno molto, davvero molto da insegnarci su come si gestisce la cultura. Esempio ne è la storia di oggi. Nome: Tullia. Cognome: Conte. Età: 33 anni. Città di origine: Firenze e Napoli. Studi: antropologia e teatro. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Parigi. Perché? Perché cercavo una nazione dove il mio mestiere fosse considerato un lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono regista teatrale e insegnante di danze popolari. Dove? A Parigi. Tornerai? Tornerò, ma se avrò una proposta di lavoro che mi interessa e che mi permette di vivere decentemente. J'ai pas choisi. Mi chiamo Tullia Conte, ho 33 anni e sono napoletano, un'età scomoda probabilmente in Italia, momento della vita impossibile da vivere, la mia generazione non ha niente, né rivoluzioni né posto fisso, non siamo niente, non esistiamo, io ho scelto di esistere. Tullia, l'introduzione della lettera che ha inviato a giovanitalenti@radio24.it è un pugno nello stomaco, sarò altrettanto diretto, l'unica possibilità di esistere oggi è emigrare all'estero? La mia risposta è un sì secco, negli ultimi 3 anni sono 30.000 gli italiani che hanno spostato la loro residenza in Francia. Di questi il 21% ha tra i 18 e i 34 anni, è chiaramente lo specchio di un paese che non ha politiche rivolte ai giovani e li relega a essere i reietti, gli ultimi della società. Partiamo come sempre dai tuoi studi, scegli l'Università La Sapienza, facoltà di sociologia, cosa ti porta su quella strada? Mi porta una passione per la scienza sociale, sicuramente indotta da mio padre, che anche lui è un sociologo, e una fascinazione a voler comprendere e codificare un po' la realtà che mi sta intorno. Gli anni della formazione universitaria non li ho vissuti bene, non mi piacciono la confusione e la disorganizzazione, senza considerare che il professore, che arrivava con ore di ritardo, era molto più impreparato di me. Cosa manca ai nostri atenei per essere realmente europei, Tullia? Mancano i docenti veri. Perché le università italiane, a mio avviso, secondo la mia esperienza, sono governate da baronie, dove non conta la preparazione ma l'aggancio politico o l'aggancio in genere. È un quadro disastroso, però è stato tutto così disastroso o hai avuto anche esperienze positive in università? Per fortuna un maestro io l'ho incontrato, che è il professor Vittorio Lanternari, che è un antropologo molto importante nella storia delle religioni in Italia e che mi ha formato e mi ha indirizzato poi a scegliere quella che è la disciplina di cui oggi mi occupo, che è l'antropologia teatrale. E quindi nel complesso il tuo giudizio sugli anni universitari? Io sono della politica di non rimpiangere la strada, anche se è stata faticosa, comunque mi ha portato dove sono, però questo non mi impedisce di avere un pensiero critico nei confronti di accademie che non sono preposte alla formazione. Ma se potessi tornare indietro, lasceresti l'Italia fin dall'università? No, francamente no. Ti laurei nel 2005, dopodiché inizi le prime sperimentazioni artistiche tra Roma e Napoli. Come sono stati gli inizi? Che ambiente hai trovato? Diciamo che l'ambiente che ho trovato rispecchiava quello dell'università. Il motivo conduttore delle proposte culturali alle istituzioni era sempre: qual è il tuo aggancio politico? Io purtroppo agganci politici, o per fortuna... Cioè questo è il parametro di valutazione in Italia dei progetti? Sì, chi ti sponsorizza? Con chi sei agganciata? È vergognoso, sinceramente è vergognoso. La svolta avviene quando approdi in Cilento, in provincia di Salerno. Lì trovi un teatro abbandonato, il Teatro Comunale di Vallo della Lucania. Cosa avviene in quel momento? Quale improvvisa ispirazione ti fa decidere di prendere armi e bagagli e trasferirti là? Per me è inconcepibile un teatro chiuso, un teatro abbandonato. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Tullia Conte, 33enne regista teatrale, attrice e performer a Parigi. Tullia approda nella capitale francese dopo il tentativo di avviare un fermento culturale nella sua regione, la Campania. Tre anni dopo ha deciso di mollare tutto ed emigrare in un paese dove arte e spettacolo non sono considerati un hobby, ma un lavoro vero. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. In Cilento resterai tre anni. Come hai iniziato? Come hai convinto le autorità locali, l'ambiente artistico del posto a darti credito? Io sono stata fortunata perché ho incontrato un giovane assessore alle politiche giovanili, che è uno di quei politici che non so manco di che partito sia, quindi non mi ha chiesto garanzie in questo senso, ma ha favorito il lavoro di un gruppo di persone che hanno collaborato con il teatro. Quindi è stato duro lavoro, ma anche la comprensione da parte di un giovane di un progetto gestito da giovani. Come finanziavi le tue attività? Ricevevi un supporto dalle autorità locali? No, assolutamente. Il supporto dell'autorità locale è stato di concederci l'utilizzo del teatro e di pagare l'energia elettrica. Abbiamo dovuto creare un sistema di autosostentamento attraverso rassegne, laboratori. Però dopo tre anni hai detto basta. Qual è stato l'episodio che ha segnato la fine della tua esperienza nel Cilento e in Italia? La ristrutturazione preposta dal comune dello stabile dell'ex convento, ristrutturazione che riguardava tutto l'edificio tranne il teatro, quindi l'unica parte utilizzata. Questo episodio mi ha fatto sentire punita di un'attività che invece stavo conducendo con molta fatica. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Leggendo l'avviso sulla porta dello stabile ho deciso di andare via da un paese che non crede più in niente, che non ha sogni né speranze, un paese che umilia i suoi giovani, deride i loro sogni, punisce la loro iniziativa. Scrivi sfogandoti a Giovani Talenti. Tullia, è questo il vero problema. Chi prova a cambiare le cose in Italia, a innovare, viene messo a tacere. Il messaggio di questa società conservatrice è: non disturbate il manovratore? Per me la risposta è già nell'azione teatrale. In questo periodo non bisogna lasciarsi addomesticare all'emarginazione e alla follia, perché questo è il cosiddetto sistema ci spinge a fare, quindi bisogna studiare, maturare pensiero critico, maturare coscienza per opporsi a questo stato di cose. Perché scegli di trasferirti a Parigi? Cosa ti porta fino in Francia? Nella società francese il lavoro dell'attore e tutti i lavori connessi all'arte sono considerati mestieri, quindi sono remunerati. Inoltre Parigi è il centro dell'Europa. Qui il mio mestiere è riconosciuto come tale, rifletti, e in Francia fondi su Danzare. Perché l'idea di aprire una scuola di danza popolare contemporanea legata alle danze del Sud Italia? E soprattutto hai ricevuto appoggi o sostegni dalle istituzioni francesi. La danza popolare contemporanea, ossia la tarantella, ha un aspetto interessante, che ha una possibilità di lavoro sul gesto e sull'intenzione dell'attore o del danzatore attraverso la sua composizione come danza, che è un mix di coreografia e improvvisazione. Questo qua è stato il presupposto sul quale abbiamo fondato Su Danzare. Per quanto riguarda i finanziamenti, la costituzione di un'associazione culturale in Francia predispone da parte dello Stato tutta una serie di aiuti, che sono sia concettuali sia la concessione di spazi da utilizzare da parte delle associazioni. I fondi veri e propri si possono richiedere dopo 2 anni di attività testimoniata. Il crimine forse più grave, lo dico in chiusura, è la spaventosa sottovalutazione che facciamo della nostra stessa cultura, sottovalutazione che emerge in modo esplosivo quando spieghi a qualcuno cosa fai in Francia. Qual è la domanda tipo che ti viene rivolta qui nella penisola? Quando dico che sono un insegnante di tarantella in Francia, a Parigi, quello che ricevo sono domande tipo veramente, e poi espressioni perplesse. Questo credo venga dal fatto che noi stessi non prendiamo sul serio le nostre eccellenze. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Credo che l'unica risposta che possiamo dare a questo è studiare, confrontarci e maturare una coscienza critica, che poi ci aiuterà a trovare, spero, una soluzione pratica. E vao a cercare fortuna. Ci raggiunge ora in linea Piera Lombardi. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Piera, cantante cilentana, vao a cercare fortuna. Un titolo che è tutto un programma. La tua canzone sugli emigranti dal Cilento è una memoria struggente di un tempo che è stato e forse purtroppo è ancora ben presente nelle storie di ogni giorno. Quanto, secondo te, Piera, è ancora grave il fenomeno dell'emigrazione dal sud, in particolare all'estero? È una delle cose più gravi che accompagnano ancora le nostre genti, insomma. E va a cercare fortuna è un omaggio alla mia gente, a quella gente che per forza ha dovuto lasciare la sua terra, non per scelta, perché io faccio una forte distinzione sotto questo punto di vista, e purtroppo ancora oggi si è costretti per forza a lasciare la propria terra e non per scelta. Piera, tu sei una delle artiste che ha lavorato con Tullia nella sua esperienza cilentana. Tu però, a differenza di Tullia, hai scelto di rimanere, anche se ti definisci una pendolare della musica. Qual è il tuo progetto artistico? Il mio progetto nasce nel lontano ormai 99, insomma. L'idea progettuale è stata quella di fare una ricerca di quelli che sono i brani più rappresentativi non solo del Cilento ma del Sud Italia in genere, delle sue storie, e di rivestirli, di riarrangiarli, di rivalutarli in maniera diversa. L'Italia, culla della civiltà, ricca di tradizione, patria del bel canto, della melodia, vive di rendita artistica, senza dare vere opportunità a chi ha ancora qualcosa da dire sotto questo punto di vista, denunci Piera. O forse a volte le dà alle persone sbagliate. Esiste meritocrazia nel settore artistico in Italia? Ultimamente soprattutto no. Il grande equivoco è tra la professionalità e il fenomeno del momento. La professionalità l'acquisti, la conquisti con tanto lavoro, con tanta esperienza sul campo. La fenomenologia invece è un po' creata anche da quello che è il mondo della musica oggi, i mass media, i talent show. La mancanza di speranze non ci fa vedere la ricchezza delle nostre eccellenze, quelle vere, non quelle di cui si riempiono la bocca i politici di turno, ci ha scritto Tullia. Quanto invece, secondo te, Piera, l'Italia perde importanti occasioni di rilancio e sviluppo anche nelle sue piccole realtà, soffocando le iniziative artistiche? Perde tantissimo, perché poi la parte artistica, quello che arriva dalla tradizione di un territorio, può essere un volano importantissimo per la promozione del territorio stesso. Spesso questo è un aspetto che viene sottovalutato, e anche laddove ci dovrebbe essere un aiuto importante anche da parte delle istituzioni, si fa un po' orecchia da mercante. Questa è la vera difficoltà delle produzioni autoprodotte, che si autogestiscono e che reinvestono tutti i loro piccoli introiti nella produzione stessa. In una battuta, Piera, resterai in Italia o no? Guarda, per il momento sì, perché ho in ballo tante belle cose, per il momento sì, si stanno muovendo belle cose, ma non disdegno l'idea di raggiungere Tullia per fare delle cose con lei prima o poi, ce lo siamo promesso tanto tempo fa. Grazie a Piera Lombardi. E domanda di rito per Tullia Conte: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Darei due consigli: uno pratico, di informarsi bene sul paese prescelto, sulle politiche dell'immigrazione e soprattutto sulla condizione relativa al lavoro che poi si vuole cercare, e di cercare anche le realtà italiane presenti che offrono un supporto culturale e morale che non è da sottovalutare. Ma il consiglio più importante, citando Carmelo Bene che diceva "nessuna patria al profeta", è quella di armarsi di intraprendenza verso il viaggio, ma di un'intraprendenza che si configuri come etnocentrismo critico, come la capacità di accogliere un'altra cultura e di comprendere meglio quella da cui si proviene. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: consigliere legale all'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia a Lubiana, in Slovenia. Scadenza per CV 27 aprile, info su acer.europa.eu. Un ingegnere project manager per British Petroleum a Rotterdam, Olanda. Scadenza per CV 19 maggio, info su careers.bpglobal.com. E infine un professore di fisica spaziale all'Università di Bergen in Norvegia, scadenza per CV 15 maggio, info su jobabinorge.no. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi parliamo di un sito web realizzato a Londra da un giovane espatriato italiano che fornisce consigli e informazioni utili ai coetanei intenzionati a emigrare per trovare un'occasione professionale degna di questo nome. Jacopo Semeraro, ideatore di Live Italy. L'obiettivo di questo blog, di questo sito, è proprio dare un'idea di come trasferirsi all'estero. Questa era proprio l'idea, l'obiettivo del mio blog. Ho diviso in diverse sezioni. Sezioni come cercare casa, cercare lavoro, ambientarsi, muoversi coi mezzi, e cerco di dare informazioni molto terra terra, anche in particolare quanto costa vivere a Londra, quanto costa usare i mezzi, che opportunità di lavoro ci sono, l'importanza della lingua inglese per trovare lavoro e per trovare buone opportunità. Quale tipo di informazioni ti chiedono i tuoi lettori? Le domande principali sono, purtroppo, una è: si può trovare lavoro dall'Italia? Questa me lo chiedono in molti. Tendenzialmente la risposta, secondo me, è no, a meno che uno non abbia un particolare curriculum, un'esperienza così importante da essere appetibile perfino a 1000 chilometri di distanza. Poi ovviamente il costo della vita, questo interessa, e poi un po' i classici miti, se c'è tanto lavoro, se non c'è, che però è una domanda che è difficile rispondere. Che tipo di persone ti scrivono, si rivolgono a te? Sono in particolare giovani, vedo molti laureati, anche persone che con magari una laurea specialistica, fatto dei master, che mi contattano in particolare per dargli una mano col curriculum e per cercare di trovare lavori qualificati all'estero. Comunque tra i 20 e 35 anni, diciamo, questa è l'età. Qual è, riassumendo, il consiglio che daresti a un giovane in questo momento che pensa a un futuro lavorativo all'estero? Il mio consiglio è, prima di tutto, imparare l'inglese e poi usare internet, usare tutte le informazioni, sono quasi tutte online, a partire dal mio blog, come i blog di altre persone o forum di lavoro. Solo una questione di darsi da fare, però bisogna essere veramente aperta e relazionarsi col mondo fuori dall'Italia, quindi siti web in inglese, forum in inglese, buttarsi fuori in questo modo. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.livitaly.com. Un motivo per restare o tornare. I ministri dell'istruzione Stefania Giannini e del lavoro Giuliano Poletti hanno firmato un protocollo d'intesa con Finmeccanica e Confindustria. Il gruppo di Piazza Montegrappa affiancherà le politiche per l'occupazione del governo, mettendo a disposizione del sistema industriale i 20.000 curricula selezionati dai 56.000 che hanno partecipato alla campagna di reclutamento avviata nel 2013. Intanto Enel lancia un programma di alternanza scuola-lavoro, è rivolto a studenti dell'ultimo biennio degli istituti tecnici. Obiettivo: l'assunzione con contratti di apprendistato. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. E aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese è Quote Giovani. Dibattetene in 140 caratteri.